posso venire avanti. Grande, buonasera a tutti, buonasera, e allora? Buonasera, comunque, sono tutti scomparsi. A me mi fermano tutti, mi fermano. Come entri, si aprono le acque, UG. Grande, ragione, va bene, mi dà zero sull'altra cosa, speriamo di sì. Volo vero a fondo scala, non so perché. Stai arrivando a bomboletta, bomba, sta andando benissimo. Ciao G, ma dove sei? Apro la torre, zero a casa. A Parroggio, dai, io già ti ascolto bene, siamo vicino. Però mi preoccupa questo Smith a fondo scala, cazzo. Boh, non me l'ha mai successo. Cambia lo spezzone. Mi, quando nomi il nome del diavolo, lui arriva. Ciao Natalino. Però non lo sento Natalino io, Ti ho detto di cambiarti lo spezzone. Ah, ecco perché non mi sei. Ti ho detto di cambiare lo spezzone, lui. Ciao. Oh, Natalia, buonasera. Buonasera anche a te, Natalino. Comunque, saluto Eugenio. Ciao, Eugenio. Va bene. Natalia, ti ha rilanciato Eugenio. Ti ha salutato e ha detto di venire avanti te. E dai, io devo fare cosa? Sto spegnendo tutto, dai. Sono entrata solo per vedere chi c'era. Ciao a tutti quei retti per me. Ciao Natalia, hai fatto l'entrata del leone e l'uscita dell'agnello. Sì, non mi va, capito, non mi va. Va bene, anch'io sono un po' così, a volte entro, a volte non entro. Da tutta la passione, Riccardi, io ero più appassionato di te, capito? Da tanti anni, tante cose. Adesso piano piano mi sto scocciando, chissà perché. Ma vabbè, comunque ciao Natali. Però Gigi, non ti scocciare che la 27 la radio non la puoi mai tradire. Lo so, io ripeto, io lo accendevo dalle 5 la mattina e l'acceso, qualche volta anche dalle 4 in camion, e c'era qualcuno in stazione fissa che si alzava la mattina a quell'ora lì e ci seguiva. Io uscivo in camion e partivo da qua sino a Cagliari, o dove andavo, e parlavo e facevo i punti da Macomè con Sassari, e la sera quando rientravo puoi dire guarda Gianni doppio ru, tutti Giulio, Dollaro e tutti quelli, Claudio, facevamo i punti radio, capito? Sono stato sempre appassionato, poi ho avuto sempre radio, roba grossa in camion, ripeto, e io sempre meno di 750 lineare non c'era mai in cambio, sempre più sì ma meno no. Ma se mettevi di più saltavano le marce in quel Mercedes. Ma ce ne avevo paura, dico la verità, sono sincero, col Mercedes avevo paura perché avevo paura di bruciare, capito? Poi mi ha capito la posta, una volta si è rotta la centralina e ne avevo tolto tutto, cioè mi facevo pagare la centralina. Io mi accendo, la radiofrequenza gioca a brutti scherzi, poi quello era tutto automatico. È positivo, dai, positivo. Capito, io ero molto appassionato, Riccardo, io facevo tutti i raduni, andavo e pigliavo l'aereo, partivo sul continente, ogni anno c'era un raduno sui continenti, li facevo tutti, Riccardo, li facevo tutti. Ogni anno andavo sul continente io a fare questi raduni di CB e ne ho girato parecchi, capito? Allora sei andato in Overing? Ne ho organizzato qualcuno io qua in Sardegna, il primo, non so, ne avrà fatto anni indietro quando ero piccolo io, podati, non so se esistevano, ma non esistevano. Quando sono uscito il boom dei baracchini ero già giovinotto io, credo, poi se ce n'erano ancora prima non te lo so dire. Comunque, il primo l'ho organizzato lì a Borore, l'ho organizzato io qua, primo, poi se l'ha fatto qualcun altro prima di me non lo so, però io sono stato forse uno di quei primi che ha organizzato una festa di CB a Borore. Poi ne sono state fatte altre, dopo hanno seguito a me e le facevano quasi ogni anno, capito, qua in Sardegna, a Cagliari, nell'Ingresiente, dove l'abbiamo fatta a Sassari, l'abbiamo fatto due volte di seguito, mi pare, o tre, non mi ricordo bene. abbiamo fatto lì a Basanta, abbiamo fatto due volte qua in Sardegna, sempre raduni così, capito? Ah, allora il vulcano c'è storia. Certo che c'è storia, perché il vulcano è conosciuto in tutta Italia e tutto il mondo, come Gigi. E beh, io ho conosciuto tutti, quando facevamo questo raduno eravamo più di 400 persone, andavamo a questi pranzi, a queste cose, attenzione, eravamo sempre oltre 400 persone, sono andato in Puglia, sono andato a Borgo Manero, lì a cosa sono stato 4-5 volte di quei raduni lì, capito? Allora adesso possiamo dire che siamo solo 4 gatti? Adesso sì, ma prima c'era più movimento, più cose qua, capito? E poi queste distanze fisse lo sanno perché mi conoscono da tanto a me. Io non rimanevo in altri canali, non entravo mai a disturbarli a loro, non li cercavo mai, capito? Non entravo mai nei loro canali dove erano loro, capito? Li lasciavo sempre tranquilli, in pace, loro erano sul 12, su quei canali lì. Non entravo mai a disturbare, dico la verità. E neanche mi conoscevano loro, mi sia della verità. Io li sentivo per nome, Natalino e coso, quando parlavano, li conoscevo, lo sapevo perché a volte, però non entravo mai a disturbarli e a cosa. Poi una volta cos'è che è stato? Una persona che da quel giorno lì allora è successo che entravo, dai, che li salutavo e cose. No, prima non li cercavo mai, dico la verità. No, non li cercavo mai. Mai. Ho capito, adesso quindi possiamo dire che esistono molti persone come dire, cani sciolti. Lo so, no, diciamo no. Lo conoscevo a Walter, a Savucci lo conosco, ci conosciamo da ragazzini, però anche a Claudio di cosa già ci sentivamo. Ma molti no, li sentivo il baracchino che parlavano per nome, però non entravo mai a cercarli, non entravo mai. Io andavo su altri canali, c'avevamo noi camionisti, c'avevo gli amici miei su quei canali lì e non entravamo mai a disturbare a loro, capito? E poi niente, poi ho fatto dal giorno che ho fatto conoscere questi baracchini modificati i cazzotti tutto qua, dai, è una cosa. Infatti mi sono pentito, ho detto una volta che ho fatto conoscere questi baracchini modificati, cavolo. Tutti si erano appassionati al periodo, poi tutti si erano appassionati e tutti me lo criticavano, però al momento si erano tutti appassionati, Luca gli piaceva, un bel di gente piaceva, capito? Però poi scocciava questa cosa così, capito? E niente, però sono stato sempre con loro, capito? Quando rientravo la sera ero sempre amico con loro, dai, a parlare con loro. La bella storia, anch'io prima quando ho iniziato ascoltavo sempre su un certo canale e non li disturbavo mai. Il giorno che sono entrato mi hanno detto roba che per sbaglio ho disturbato il QSO. Sì, ma tu non ti preoccupare, fanno scusi, lo fanno perché giustamente uno che sta appena entrando, anche a me quando sono entrato le prime volte ho sbagliato nome, nominativo, no? Ho sbagliato nominativo perché mi sembrava una voce uguale e mi hanno detto cosa, ma non è che stavo iniziando, stavo entrando nel primo periodo, ho detto vabbè, te lo chiamo più, non vi cerco più, no, entra tranquillo. Succede queste cose, dai, succedono, ma no, non è tutto, no, è tutto normale, fa parte del gioco. Va bene. No, perché lo so, all'inizio anch'io confondevo diverse persone, confondevo i nomi, ma non mi hanno mai detto niente. È positivo, a me l'hanno detto, dico la verità, non mi ricordo che avevo sbagliato, ma mi hanno detto, non mi ricordo chi era. Non sbaglio se era Claudio, ma se era proprio Claudio, beh, detto, o qualche d'un altro, poi dice no, non devi sbagliare nome perché dici fai il nome e poi non sono io, mi sbagliava, ho detto no, allora boh, aspetta, ho detto no, non mi ricordo se avevo sbagliato con Claudio dice il nome o con qualche d'uno, non me ne ricordo più, e mi ha fatto osservazione. No, ma no, Jacob, non mi sono mai permesso di dirti niente io. Ma avevo chiamato, avevo scambiato per Claudio, adesso non mi ricordo. Cazzo, mi sei permesso di dirmi, non c'entro più, non vi parlo più, molto ci vuole. Dice, allora dice, perché stai sbagliando, dice, non l'hai fatta apposta, no. Dice, non deve fare il nome di nessuno. Sarà così. Capito? Mi ricordo il particolare. Questo particolare non mi ricordo le prime volte che sono entrato nelle. No, perché mi pare avevo trovato a te a Campomero un giorno, ti ricordi che là? E dal giorno sono entrato, può essere, a entrare in stazione fissa, se non entravo mai, mi pare dal giorno ti ho trovato lì a Campomero. Esatto, io stavo là per tu a lavorare, abbiamo preso il caffè lì da Brescia a Campomero e tu ce l'avevi solo nella barra, e io ho detto, ma mettitelo anche a casa, Gigi, dai. E infatti l'antenna te l'ho montata io, se ti ricordi, io con Luca, sì. Per casa non c'è problema, me lo ricordo perfettamente che sono stato io a dirtelo, infatti ti avevi messo un baracchino a casa, capito? E poi hai fatto una bella anche stazione. Inizialmente avevi un baracchino solo, l'antenna l'abbiamo montata io e Luca, se ti ricordi. Sì, che c'avevo sempre, mi aveva ordinata la cosa, Valte, c'avevo sempre dentro quel magazzino, quel garage, ti ricordi? C'avevo già anni e anni che me la piazzavo e poi me l'ho deciso, ti ricordi? Sì, mi ricordo perfettamente. Ok, dai, Bianco, che sto facendo, sto mettendo la lampadina, ma la radio però è troppo bassa, dai, ci sentiamo dopo. Appagappa. Ehi, a dopo, Cla. Mi sono ricordato un'altra cosa adesso, sempre, no, però già ero da tanto, un giorno stavamo discutendo, non mi ricordo di che cosa, con Claudio, se stavamo parlando di baracchino, di che cosa stavamo parlando, e io dovevo, era già tardi, dovevo imbarcare un rimorchio al porto a Porto Torres, c'era un rimorchio che avevo scaricato di pesce congelato, e niente, parlando con lui che stavamo discutendo, non mi ricordo di che cosa, mica invece esco da lì perché ero a Predanieta scaricando questa cosa, prendo per prendere la camionata, invece di cosa ci sono uscito dritto al Alghero, hai capito? E ho fatto quel cavolo, parlando con lui mi sono incavolato, gli ho detto, stavo discutendo con Claudio, non mi ricordo di che cosa, e parlando sono uscito verso Alghero, hai capito? E poi sono potuto fare tutto il giro, ho fatto in tempo a imbarcarlo quel rimorchio, Gaffa, succede che hai altre cose per la testa parlando e sbagli, anche a me mi sono volte, vabbè, non in queste situazioni, però in altre. Oh Gigi, e a me perché mi scambiavano, te lo ricordi, quando parlavo io? Per me. Beh, c'è uno mi ha detto ciao Gigi, che è Franco, mi è sembrato Franco di Sorso. Natale. Natale lo chiamava Claudio Spalmiero. Oh, Gigi, te lo ricordi per chi mi scambiavano a me quando entravo io a parlare? Forse va Claudio, ma non può essere. Boh, adesso non mi ricordo. Io forse avevo sbagliato con te, mi avevo detto Claudio, qualcuno si era offeso. Cos'è che si era offeso il giorno? Oh, non lo so. Per Claudio mi scambiavano sempre. Io non sono Claudio. Ma la voce era già fottito, però. Natalie, dimmi, perché a me mi prendevano, loro prendevano per me, no? E a me mi prendevano per lui. E vera lì fa Bozzi, erano via Pascoli, erano che sono andato via Pascoli. Natalie, dimmi, mica sto salendo, ci vediamo in pasticceria, Sari che sto arrivando, sarà ancora esitendo. Perché di dopo scherzavamo e facevamo gli scherzi, proprio io a volte facevo la voce da donna, capito? Gianni, allora l'unico che si offendeva era Gianni Doppio Ru, capito? L'unico che si offendeva era Gianni Doppio Ru, gli altri no, ma facevo la voce da donna, quando stavo scendevo da Cagliari, che ero sulla camionabile andando giù a Polottore del Trolini, che sentivo parlare a baracchina, entravo e facevo la voce da donna, ma lui si proprio se la prendeva proprio, è l'unico che si offendeva. E perché ci dovevamo offendere qua? Abbiamo fatto di casino. Sì, ma io glielo facevo apposta, lui si offendeva, poi glielo dicevo, però lui si offendeva, hai capito? Io sono una persona, mi ricordo il giorno, una persona, me ne sono accorto che non sia una donna, che la voce non è di donna, che è di maschio. Ma ti ricordi quando partivo da Campomero? Io prendevo sempre il caffè la mattina, perché entravo alle 6, 5 e mezza, 5 e un quarto, capito? E ce n'avevo il baracchino, partivo, attaccavo tutto, c'avevo quelle 300 della MR Italy, Cravidù, mica il Claudio Sparviero quello. Sì, perché la radio era mia, no, essendo la radio mia, la tonalità, la cosa era quella, capito? E sembrava, capito? Se no Gianni Avvoltoio a volte. O ti scambiavo per Gianni Avvoltoio, ti ricordi? Sì, tanti volte mi chiamavano Gianni, Gigi, Claudio Sparviero solo, non solo Gigi, neanche Gianni Avvoltoio. Ma usciva una bomba con la radio, porca miseria. E vabbè, io poi, quando ho finito di lavorare, lì l'ho tolta dalla macchina, perché ero a Sassari. Ho provato a metterla a casa, ma non sono mai riuscito ad usarla, troppi colpi prendendo. E allora l'avevo data la buona mai Giampaolo, poverino, a mettersela nella moto, se già se l'aveva messa. E poi l'aveva data Gianni Dischetto, c'era ancora, infatti Gianni non l'aveva nessuno, perché è un... A parte vabbè che è un ricordo, ma comunque funziona bene. Vabbè, fatemi finire questa cosa, dai, sto mettendo la lampadina e devo isolare, che ho soldato, devo isolare. Riprendi Riccardino, fai girare, io rimango un attimo in corrente. Ehi, hey, è da sera, facciamo riprendere di nuovo Natalino. Oggi, e se no non la facevo girare io quella radio tua, te lo ricordi? È positivo, comunque quella che c'è nella macchina Claudio, poi non so per quale cosa aveva tornato a me tu Claudio, e io quella lì, sai che, ce l'ha? C'è la barra agricola, perché quella era la prima radio, la prima assoluta che mi aveva fatto la buona anima di Giancarlo. Capito Claudio, se poi te lo ricordi avevamo mandato a fare una regolazione di qualcosa da Giancarlo, ti ricordi quel particolare quando te l'ho data, l'avevamo mandata. Quella radio esiste ancora e non è quella che c'ha Gianni, perché ti ho dato altri io di radio. Quella c'è nella macchina proprio, quella nera, quella Citroën, e c'è la barra agricola, capito? C'era lui, barra agricola. Sì, la Citroën della Guardia di Finanza. Una volta che aveva molto in blocco tutti mi salutavano, cazzo da te le risate. Quando tornavo la perfora la sera, magari facevo il turno dalle 6 alle 2, no? Alle 2 partivo, magari lì nella piana di Proaghi, Chianamonti, di Carabinieri. Come ti venivano a Revelli a tagliarmi la mano? Salute, perché c'era l'antenna a centrotetto, proprio nera, uguale a quella della Guardia di Finanza, la civetta della Guardia di Finanza, non so se l'avete mai vista quella Citroën blu, no? E davanti c'era quella nera con la molla, che è uguale a quella che usano loro. Tutti salutavano, salute, bimbi, io usavo sempre a tutti, non mi fermavo mai nessuno che siamo anche. Invece quando ero travagliando la cosa a me mi fermavano in tutti la pagata. Che poi c'aveva quel giubbino, sembrava un finanziere, quel giubbino in renna color nocciola, te ricordi quello beige o che colore era, un po' marroncino, quel giubbino leggero che c'avevi in renna, in pelle, cos'era, te ricordi? Sì, manca la divisa, era verde allora, capito, perché avevamo ecologia ambiente, quindi parliamo anche della Guardia di Finanza. Ma tu immagina, devi dire a Luca Manicomio, a Luca Ariello, un giorno mi sono fermato in via Pascoli a prendermi il caffè, tutti agitati, entro da Adamo al bar, agitati, cosa c'è? Cazzo c'è la civetta della Guardia di Finanza, ma che non è la civetta della Guardia di Finanza? Io la vedi di fuori, quella scita di blu, me ne è uscita nel culo che è la macchina mia, quella del gatto della Guardia di Finanza. Tutti agitati a dire. Scusate un attimino che mi stanno chiamando, mio figlio mi sta chiamando, un attimino scusate. Io con Luca ho Natalia con Franco Califano, certo, ma sei risati, Luci, allora è grato, allora vedo chi, ogni volta, mia civetta, attenzione, quei di tutto, tu fai gli scontrini, mi raccomando. Riprende Riccardi, fai girare, dai che sto facendo cosa. Io sto sistemando un attimo qui in stazione e faccio subito, come te riprendo. Scusate un attimino, mi assento un attimo, riprendo dopo se ci siete. Sì, ok, dai. Avanti, chi è? Il muccettino. Ti sento male. Ero in USB, scusatemi. Infatti ti sentivo tipo banda laterale, prova a parlare. Ok, vediamo come sta andando adesso, un altro microfono, 1, 2, 3, prova. Bellissimo, complimenti, veramente bella, chiara e pulita. Aspetta, vediamo anche i livelli, ti dico i livelli. Ok, aspetta che provo a vedere come sono questi livelli, se vanno bene o vanno male. Prova a parlare e mi dici come c'hai impostato il coso, il controllo dei toni e poi il livello microfoni. Ok, praticamente ho i toni a 4 e il volume del microfono a 8. E poi ho, vabbè, il mic gain della radio al massimo e basta, nient'altro da dire. Ma facciamo tutte le prove, te l'ha regolato qualcuno o stai andando così a conto tu? Sto andando, no, è da un back, non lo uso questo microfono, l'ho tirato fuori, è stato cablato e ho messo una regolazione così per caso. Allora, aspetta un attimino che accendo anche un'altra cosa, così adesso che non c'è nessuno facciamo una regolazione, aspetta un po'. Allora, inizia tutto quanto, metti il mic gain a metà, il guadagno del baracchino, del microfono, e toni tutto a zero. Ma quanto lo metto il volume del microfono a metà, a 5? Cos'è, da 0 a 10 va qua? Sì, fa da 0 a 10. Allora tu fai una cosa, metti a 5 il volume del microfono e i toni tutto a 0, tutto abbassato. Ok, adesso è come sulla regolazione che ho i toni a 0 e il volume del microfono a 5. Adesso inizia a sollevare e lo metti al massimo il volume del microfono. Adesso il volume del microfono è al massimo. Però Riccardi, mettiti sempre nella stessa posizione, non è cambiato quasi niente, devi stare sempre alla stessa distanza, parla lentamente e in direzione del microfono, non ti spostare, sennò non riesco a darti delle regolazioni. Ok, adesso faccio la stessa cosa, sono di nuovo a 5 il volume del microfono, come ho detto il volume del microfono è a 5. E adesso mettilo al massimo. Adesso il volume del microfono è al massimo, è a 10. Ok, adesso fammi mettere, mettimi i toni a metà. Adesso i toni del microfono sono a 5. Provali al massimo un attimino. Adesso tutto al massimo, volume del microfono al massimo e toni al massimo. Allora, ritorna a 0. 0 che cosa? Il volume e i toni? I toni a 0. Ok, adesso ho i toni di nuovo a 0. Il microfono è al massimo, abbassa un po' di meno, metti tra il 5 e il 10. Ok, adesso ce l'ho a metà tra il 5 e il 10. Io sento un disturbino sotto, non parlare, schiaccia il portante senza parlare. Ok, adesso mi ha detto, quindi ce l'hai più o meno a 7 il livello del microfono, così è? Sì, adesso il livello microfonico è a 7. Allora, adesso fai un altro passaggio e me lo metti a 5 il livello del microfono. Ok, perfetto, adesso il livello microfonico è a metà. Ok, fai un passaggio più lungo. Ok, proviamo adesso, 1, 2, 3, prova maestra, 1, 2, 3, prova maestra, 1, 2, 3, prova radio. Adesso, come ho detto, ho il volume del microfono a metà e i toni a 0. Adesso facciamo una cosa al contrario, metti il microfono al massimo, il microfono, il guadagno del microfono al massimo e metti a metà il guadagno del baracchino. Adesso praticamente il mic gain della radio è a metà e invece il volume del microfono è al massimo, i toni sono a 0. Prova a parlare adesso, fa un passaggio più lungo. Ok, provo, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova radio. Vediamo, ripeto i miei dati, come dire, dati statistici, il volume del microfono è al massimo, i toni a 0 e il mic gain a metà. Adesso ma cosa ha messo? Il Roger Beep? No, il Roger Beep è sempre, è un Tornado 34S, ha solo Roger Beep. Ah, vabbè, a brutto. Vai, aspetta, vai sul 12 un attimino. Vai canale 12, Riccardo. Binario 10, ci ascolti l'isola della Sardegna che chiama. Riccardi, una bomba, sembra che stia uscendo con un apparecchio di grandissimo pregio, non un baracchino normale, proprio piena, corposa, la modulazione eccezionale, non sei mai uscito così bene. Capo, va bene, perché ho apparecchi un po' più belli, barchini un po' più grossi, però questo ne dubitavo, non lo uso quasi mai, e con questo microfono però comunque una buona abbinata. Assolutamente, mi raccomando, non toccare le regolazioni, lasciati tuni tutto giù, perché se sollevi tuni sporchi tutto quanto, li lasci a zero, c'è una modulazione perfettamente pulita e lineare, chiara, senza nessuna imperfezione, e se sollevi appena appena o uno o l'altro crei dei problemi, perché io ti ho messo proprio al limite della saturazione, non hai nessun problema, perché se sollevi appena si sente un disturbetto, ti porti appresso. Io dico non toccare niente, ricordati a quanto hai regolato sia il microfono e che cosa hai regolato il guadagno dell'apparato, della radio, per cui mettici un po' di colla, un pezzo di scotch, fai quello che vuoi, non toccarla. Capa, va bene, sappiamo come si dice, non tocca se quello che lo dice in ascolto, lusso, e va bene, no, come detto, non tocca se. Ehi, vediamo se nel canale 10 c'è qualcuno che vuole entrare avanti. Cosa stavo dicendo? Ti ho detto qualcosa? Sì, qualche di stava parlando di baracchini, ma stai aspettando il Midland, mi ha detto tuo babbo. Il Midland è lo Zodiac. Ma il Midland o lo Zodiac stai aspettando? K. Zodiac. Luca, senti questa modulazione se ti piace. Ho già sentito, ciao Robè, avanti, prova. Attenzione Luca, che se ascolti Riccardo che sta chiamando, vediamo cosa ti sembra questa modulazione. Tolto poco fa che va meglio dell'altra, ma accetto una volta meglio dell'altra. Vabbè, comunque questa adesso l'abbiamo regolata bene. Vabbè, poi ognuno è libero di usare quello che vuole, però questa è molto molto meglio. È un baracchino, Luca, con un microfono serio, molto molto di grandissimo pregio, sta uscendo alla grande, mi paragonabile alla tua di modulazione, siete le due più belle in assoluto, di quelle amplificate a parte. Sì, sì, capito. Andare. Sono un po' stanco, sono stamattina dalle 4 in piedi, riposato un'oretta solo e basta. Com'è così prezzo, Lu? Fatto un giretto, là, fa un po' di lumacchine, robe. Lumacchine? Hai sempre trovato lumacchine? Certo, ho trovato un chilo e mezzo, belle, belle veramente. Ma in che zona sei andato? Sì. No. Mancari, Mancari e la Crucca. Ma perché vi piacciono le lumache? Perché cattive. Mamma mia, sono andato alla sagra delle lumache, non le potevo vedere in Friuli, quando stavo ancora in Friuli. Vabbè, diciamo un'altra cosa. Le lumachine sono un po' fastidiose da mangiare, a me mi piacciono le lumache grandi e le monzette, i lumaconi non li mangio invece. Mi stavano dando di tutti i tipi, mamma mia, mi è venuto una cosa, vabbè, sono gusti, non so come, forse a Sassa gli piacciono molto, io a casa non c'è nessuno che mangia lumache, lumachine, monzette e monzette. No, non è che ne vado matto, ma le ho mangiate, dai, ne ho mangiato da ragazzino anche troppo. L'estate, lumachine con patate, a voglia, un pezzo di cipolla in mezzo, andava alla grande. E le monzette me le aveva fatte conoscere mio suocero, buon'anima, al forno, via al forno, come si chiama? Arrosto. In padella, soffritte, con un po' di aglio, mamma mia, vabbè. Comunque, adesso sta arrivando babbo, forse entra lui perché c'è poca gente. Comunque, vabbè, c'ho un po' di lumaconi, un po' di lumache grosse, belle lo stesso, Quelle vecchie, le lumache vecchie, belle. Mi sono fatto la scorta, per fare due o tre mangiate. Ma adesso sta diventando raro trovare, te lo ricordi tu scendendo, per dire, a Platamona nel Guadalupe, era sempre pieno, a quintali, cioè attraversavano anche la strada in certi orari, ci passavi, le schiacciavi tutte. Adesso hanno fatto una strage, hanno messo tutti questi antiparassitari, cose del genere, hanno ammazzato tutto, si stanno un po' riprendendo, ma c'era un periodo, almeno 4-5 anni, che non se ne vedevano più di lumacchine. C'era la zona di Ussi, dove lì avevano messo proprio il divieto, se ti trovava la forestale ti denunciava, perché e avevano raschiato tutto. Adesso piano piano qualcuno già la vede in giro. Sì, adesso la trovi dappertutto. Vabbè, ho camminato, ma camminato, se vuol dire camminato in mezzo all'erba alta, con i stivali, è un casino, ma camminato un bel, vabbè. Ragazzi, mi fermavo perché non ce la facevo riusciamo a continuare, non è possibile. Poi piano piano siamo arrivati, diciamo, nel punto magari che riusciamo a camminare meglio, ma non si mette a lei, ma alta ti viene un bel male. Già lo so, e asparagi, non è che hai visto o non è periodo? Sì, asparagi l'ho fatto anche, quest'anno l'ho fatto, poi c'è stato il blocco che non si poteva uscire di casa, sì, ho fatto un bel mazzo grande. Allora, 2 anni fa un amico mio, che lui andava presto, come te alle 5 del mattino, partiva, no, cacchio, sotto Codrongiano, mi ha detto, però devi arrivare presto, devi andare in zone dove non ci va nessuno. Ne ha preso 5 kg, quindi che 5 kg di asparagi, un bel, dice, non sapevo più dove metterle, abbiamo trovato un terreno, era pieno di asparagi, a me gli asparagi mi piacciono troppo, con le uova, cacchio, e vado matto, anche il risotto con gli asparagi, sono troppo freschi naturalmente, non suggerato. Perché a me ci faccio la pasta, pane e asparagi e con la pancetta anche. E poi, con l'uovo è la sua morte, mamma mia, è un bel guatto. Ci sono rimasti un po', li ho messi in freezer, tagliati, dove sono rimasti un po'. Adesso vediamo, uno di questi giorni, poi facciamo un po' di pasta. Oh Roberto! Dimmi tutto. Il tuo amico altro che 5 kg, se vai dietro campagna mia, 5 tonnellate. Ma ce ne sono tante. Sì, se ne fai la scorpacciata ti passa anche la voglia. Tu lo sai cosa fare, Cardi, quando c'è 10 minuti di tempo me ne prendi un pochettino, 5 kg, bastano 200-300 grammi, me li metti da parte e vengo e li prendo. Sì, a casa se ci siamo anche quasi stufati, è da un po' che non ne mangiamo perché sennò c'è troppo, ne mangiamo. Tipo qualche volta mamma l'ha fatto con la pasta con l'uovo e un bel di roba l'aveva messo, mi sta anche uscendo di testa. L'unica cosa, quando vai in bagno è un pochettino delicata la situazione. Sì, con le sganci di bomba, manco la seconda guerra mondiale le bombe così grosse. No, la pipì puzzolente fai, sì, e vabbè, ti purifica e rini. Però fa bene, è una cosa molto ma molto consigliata, soprattutto chi ha carenza di ferro e cose del genere, come i carciofi, ti danno grande, come si chiama, sollievo per chi ha carenze di ferro. Lo so, una volta abbiamo mangiato asparagi e carciofi, e non ti dico, roba di bombettoni, di quelli che li hanno praticamente, adesso sono, come si dice, non le puoi buttare il bombettone, lo sai, sì. Arrivo subito. E poi per concludere una bella tela di fene e coso e fagioli. E così conclude la giornata, Lu. Come si dice, mi viene la parola. Dunque, per quanto riguarda gli animali, ecco. I bombettoni sono. Polpettone, non ti sto seguendo, ma scarichi stai parlando. No, dico, bombettone, non le puoi più gettare, roba, se ti trovano passi casini. Sono. No, non ti sto seguendo, di cosa stai dicendo? Vabbè, i bombettoni, quelli che si sparano a Natale, a Capodanno, non si possono più usare, lo sai, sì. Io stavo parlando di cacca, pensavo stessi parlando degli animali che ti fanno, tipo gli animali che fai, non ti stavo seguendo, sì. Vabbè, non giugare, da poco la baracchino, una cosa, prima mi piaceva un bel, però adesso no. Io invece mi sto di nuovo riaffezionando, lo sai Luca, ero un po' di tempo, c'avevo un po' di passione all'inizio, poi mi era passata, a me un po' turrata con questo fatto del coronavirus, la sera, vabbè, perché adesso sono libero la sera, poi quando sarò più impegnato magari entrerò raramente. Pure io, vedi, io sono entrato dopo la mia 25, gli altri balle, va, forse mai l'inverno di più, adesso. Arrivano una passata di birra tra venerdì, sabato, domenica e oggi. Cavolo, un bel po' di birra mi sono bevuto, non dico una casa, ma quasi. No vabbè, io la birra la bevo così, ma non proprio come l'acqua, c'è gente che la beve come l'acqua, io per dire se sei in compagnia beviti un bicchiere di birra, no? Però a berla al posto dell'acqua no, quello no. Vabbè, io la bevo perfetto, dai. Io ho i miei cognati, se li vedi, già lo conosci uno, già te lo ricordo. Sì, coso? Luciano. No Luciano, l'altro. È l'altro, boh. Tatallone. Sono più forte. Ah! Cacca, se vedi quello bevendo birra, te ne vai cotto con lui. Molte volte, ma io vieni a bere, cacca, poter, ah, io vengo un'altra, io vengo un'altra. No, lascia perdere. Loro come l'acqua, sono abituati, muratori, cacca, ne bevono come l'acqua, al posto dell'acqua. Beh, ti credo. Te credo. Vabbè. Uia. Casino. Cioè, è buona, però, alla fine. Naturalmente devi bere birra di qualità, c'è un bel di mondetta. Vai Riccardo. Ehi, aspetta che sto cercando una suoneria che vi faccia scoppiare dopo l'altro che sirena. Oggi mi sono assustato, mi ha telefonato uno, avevo appena chiuso il telefono, la cornetta in officina, mi giro, tra, mi suona di colpo quello lì, la prima volta che mi sono spaventato io, normalmente si spaventano tutti per la sirena mia. Lui. Ma se la gente, tu non ci credi, sembra una fesseria, ma se la gente che mi è capitato che si cagano sotto, mamma mia, in manca una volta mi è partito, tu vuoi vedere la gente l'entrata, l'entrata la guardia giurata, come che ci fosse una rapina, cagata tutta la gente, si è proprio formato il panico in un attimino. E poi non parliamo del supermercato. Poi quello che mi ha dato fastidio, sono andato quando è due o tre mesi fa, prima del coronavirus, a prendere gli occhiali a mia figlia in Viale Italia, che di lì passano tutte le ambulanze, quello come si chiama, occhi mi sembra che si chiama, quel coso di ottica. Lì le ambulanze passano ogni 5 minuti. Cazzo, a vedere questo qua cagati sotto, ma succede, succede. Cacchio, non vi siete spaventati? E ho ricevuto poi subito dopo l'altra telefonata e questi di nuovo spaventati. Già siete abituati voi alle ambulanze? No, no, ma mi ha fatto spaventare. Beh, proprio si immagina. Beh, come procede il telefono, va bene, sì. Sì, alla grande, poi soddisfattissima. Ti volevo dire, non è che ti ritrovi lui, per sbaglio, un'antenna per il GPS di macchina, quella a bottone, ce l'hai presente? Antenna GPS di macchina? Del navigatore. E quelle a bottone che sono tipo un'unghia, dai, rotonde, nere normalmente, col cavetto SMA. Sì, burro, beh. Quello prossimo come è fatta? Ah no, perché me ne hanno regalato uno bellissimo, ma proprio bello bello, cacchio, l'ho provato quando è avanti ieri, tutto touchscreen, monitor da 7 pollici, c'ha il telefono, navigatore, puoi mettere tutto quanto, c'ha tutte le schede già caricate, ma ti posso dire veramente bello, funziona anche una meraviglia, però manca l'antennina, io ho l'antennina, quelle da attaccare al coso, al computer, con le wifi per migliorare la rete, dai, però ci vogliono quelle che si mettono all'interno del parabretta, che sono tipo un bottone, tipo un tappo, cioè presente, una cosa così, si passa a filo di parabrezza e poi si mette dietro lo specchietto retrovisore. Beh, sono presente come sia. Ho chiesto ai cinesi, anche io ero convinto di andare a trovarle dai cinesi, invece no, adesso mi devo dare una risposta a due persone, se non le trovo dice provo la GBC a vedere se ce l'hanno loro. Ecco. Avanti il break. 5SL, buonasera Roberto, buonasera a tutta la ruota, qui è Chioda Ruginito, operatore Claudio dal QTH di Muros, avanti Roberto. Tu stai spingendo troppo mi sembra, ciao Claudio, ben sentito, c'è Luca e Riccardino, ti rilancio Luca e poi Riccardino. Sì, ciao Claudio, dai, salutoni, infatti anche qua un po' saturo. No, ma forte anche come segnale, sei un po' gracchiante di modulazione, chiara però sei un po' gracchiante Claudio. Sì, stavo uscendo con 200 watt, sì, adesso mi sono sceso a 120, adesso va bene, no? Assolutamente, adesso va molto bene, teoricamente o ti allontani un po' dal microfono o abbassi appena appena. Kappa, mi allontano che abbasso appena appena, ok, da 5 mi sono portato a 4 con i tighendi del mio più 5, riprendi. Allora, se non avete la voce stai andando alla grande, segnale quasi 9 più 20, radio super 5. C'è Riccardino che ha messo un baracchino allucinante. Senti Riccardino, avanti tu per Claudio. Ciao Claudio, ben ascoltato, lo sappiamo che lo fa lì, ma non c'è bisogno di dirlo, che stava aiutando. Comunque sì, ho... E tu cosa hai combinato? Il tornado 34S sta andando bene, volevo chiederti anche a te un parere, mi hanno detto che va bene come modulazione, però se mi dai un'opinione anche tu. Aspetta che avete parlato in due, scusate un attimino, Claudio aspetta un attimino, che forse vi siete parlati insieme con Riccardino, parla di nuovo Riccardino e poi farà il commento Claudio sulla modulazione. Ok Claudio, sì, ho detto se cosa pensi di questa modulazione, mi hanno detto che ho un parere, però un parere in più non guasta. Sì, capa, è caldissimo, per me va bene, diciamo, stai uscendo pulito, diciamo, non hai nessun disturbo, vai bene, sì, comunque non ero io prima che stavo parlando sotto, ma era qualcun altro, non so, riprendi, comunque va bene. Però sei ancora stato catturando, o abbassi il volume del coso o riduci un po' la potenza, il volume del Mickey Game, perché adesso stavi leggermente trappando, Claudio. Sì, campa, Rube, sì, è perché mi ero avvicinato troppo al microfono, adesso dovrebbe andare meglio, confermi. No, ma al limite tu trovati la posizione ideale di seduto, rilassato, in modo quella che normalmente parli, e ti abbassi mica che, sennò poi non ti ricordo se devi avvicinarti, allontanarti. Io sto seduto sulla sedia con la posizione lì e non mi muovo da quello, faccio le regolazioni e non tocco più niente. Così fai tu, mettiti il microfono alla giusta regolazione, adesso sei troppo forte, stai leggermente strappando. Sì, sì, va bene adesso. C'era qualcuno sotto che parlava avanti. Quando stava parlando Riccardino c'era uno, sentivo che stava parlando. Buh, molto forte il segnale. Vai Luca. Eia, se lo sentivo a Riccardino che usciva male. Pensavo avesse un problema al microfono. Ma c'è, ma c'era qualcuno sotto, non si capiva, vabbè. Sì, anche la parte mia si è a posto, come è abbassato. Che quando gli hai troppi watt non va bene. Ma è saturazione della radio. Mezzugai, ok, dai, un attimino mi assetto, allora, c'ho 7. Ehi, a dopo Luca, riprova Claudio, fammi sentire di nuovo. Campa, Rube, sì, adesso ho attaccato la famiglia, sì, adesso allora come mi ascolti, 1, 2, 3, prova radio, come mi ascolti? Ma il segnale non è cambiato quasi niente, ma quanto stai uscendo? Con 125 watt. Adesso però c'avevo un ronzio, schiaccia portante. Ah, c'è il vento là vicino. Diciamo quella che lineare sarà Rube. Togli completamente l'amplificatore e lascia solo potenza dell'apparato. Così è un'altra musica la radio. Tu quando attacchi il coso ti strappa un po' di modulazione, così sei perfetto, chiaro e pulito. Adesso ho attaccato l'alfa minima Rube, diciamo dovrebbe, non so come sta andando, ma dovrebbe andare un po' meglio di prima, confermo. Guadagni di segnale, però ti dà un po' di ronzio. Ma così la valvola transistor. Scusate se intervengo, così c'era qualcuno che vuole entrare, non è che scappa poi. Sì, hai registrato il break comunque, no? Scusa, hai parlato sopra di Claudio. Vai di nuovo, Claudio. Stacca l'amplificatore. Allora tu sei 9 più 10, radio perfetta e chiara. Come attacchi leggermente saturo. Chiara però un po' satura come modulazione. Adesso facciamo entrare l'amico sotto, avanti che voleva entrare. Chi sei? Bene? Allora, segnale 7, però non ho capito chi sei, se vuoi ripeto. Da Ittiri Leone, così è? Sì, è Leone da Ittiri. È un po' gracchiante di radio, il segnale è forte, la radio non è comprensibile, ma ti stai aiutando. Segnale 7, radio 4, potrebbe uscire meglio magari, non so se ce l'hai troppo vicino alla bocca, perché un paio di pezzi non ti ho sentito, però il segnale è 7 qua. Ma è amplificato. E a me mi ascolti bene? Ok, ma sei con l'antenna, che antenna c'è? Mantova 5, come sei così basso? Normalmente mi arrivano oltre 9 da Ittiri, ma sei, che zona sei di Ittiri? E come mai sei così basso? Boh, che strano, a posto sei di stazionarie e di tutto. Adesso sei più forte, sei 9, però la voce è un po' satura, prova a parlare. Il microfono è un burro, so. Prova magari ad adattare un altro microfono, adesso sei salito a 9 di segnale, però la voce è un po' satura. Allora non funziona bene questa qui. È forte, è pulita, però non è chiara la voce, nel senso non ti stai portando QRM, il segnale è forte, la radio sarebbe 5 se fosse stata chiara, però non è chiarissima. Allora non serve il microfono. Magari è per quello, prova un altro microfono, ti sento un po' cupo, non lo so. Ok, avanti Riccardo. Ok, hey, già lo sento, comunque lo saluto, ciao Leone, ben ascoltato da Ittiri. No, sì, la radio è un po' così, però per essere ad Ittiri sta andando bene. Vediamo Claudio Lamuro se lo ti ha ascoltato. Claudio, l'ha ascoltata Leone? No, negativo, sì, comunque saluto l'amico, diciamo, da Ittiri, Leone, sì, buonasera, io da Ruggimizio, operatore Claudio, la curiata di Muro, che mi super cordializza e purtroppo non lo mi sento, riprendilo questo. Leone, l'hai ascoltato a Claudio Lamuro? Sì, a tutti chiari vi sento, io ho preso questo apparecchio da internet, costa una fesseria, però sai, il microfono e la presa del microfono attacco del telefono, di quelli di casa. Adesso un po' meglio sei andato, ma ti stai aiutando? Mi stai aiutando, adesso mi stai aiutando, sì. Ehi, il segnale già, sei oltre 9 come segnale, ma peccato la radio, potresti andare meglio. Che baracchino è questo? Non lo so, un CRT Millennium, 400 canali. Adesso prova, se riesci a abbinarti un bel microfono magari migliori tantissimo, perché il segnale è forte, non ti porti appresso col REM, per cui se riesci a mettere un bel microfono la radio diventa molto molto migliore. Ok Riccardo, quando ti arriva a te? È uno Smith un po' avaro, questo Tornado un po' vecchiotto da tutta la storia che ha avuto, e quindi non so dirgli, però so comunque che sta andando bene. Scusa Leone, se non ti so dire, è un segnale, come ho detto, uno Smith un po' avaro. Oh, ci interessa il segnale a noi, ricordate di arrivare. Sì, a voglia che arrivi. Peccato, potresti andare meglio considerando che sei molto forte il segnale, sei più di 9 qua. Questo malattino l'ho preso, è arrivato oggi, me lo dà 10 watt di uscita. Ehi, c'è anche la banda laterale? Ah, è un omologato. Ah, ok, va bene. Ma l'attacco com'è? A quanti puli è? 8 puli? No, sai come si chiama? L'attacco del microfono, è di quelli degli attacchi che c'hanno il telefono di casa. Ah, quindi è tipo quelli nuovi a crimpare, quelli tipo il coso internet, il telefono, attacco telefonico. Io attacco così, cioè, ma se lo coloco a cambiarlo. Devi bisogna fare un adattatore, allora bisogna lasciare quello lì sul microfono e poi fare un adattatore maschio, scusa, femmina, fare una prolunghetta con un adattatore e così ci puoi mettere un microfono, diciamo, di quelli soli. E c'è la 300 senza usare? Non c'è coso di lì a Itiri, Gianni, Giovanni. Ah, non l'ho visto più. Non sta più lavorando Giovanni? Questo è la morta la moglie, non l'ho visto più. Non ho capito, ti sento male. La morta la moglie, non l'ho sentito più a lui. Ma già lo conosci, sì. Fammi lavorare. Ok, lui è molto bravo, un grande, grande tecnico, molto preparato. Se si chiede a lui, te la fa lui la connessione, visto che si ditiri. Ok, vediamo chi c'era. Claudio, avanti a te il mic. Sì, cos'è l'Opel? Sì, diciamo, io diciamo purtroppo non riesco a ascoltarlo bene, diciamo, l'Opel sì, però lo saluto, non so se lui mi sta ricevendo, mi sta ascoltando, l'Opel sì. Io mi sono portato, diciamo, controllando le stazionarie, sì, ripeto. No, ascolta a tutti, ha detto che non c'ha problemi, ma sanno comunque che l'antenna di lì, una mantova a cacca Itiri dovrebbe arrivare a bomba qua, perché ce l'ho di fronte, cioè arrivano quelli di Alghero più forti di questo segnale, lui si sta... Quanti te ne stai dando di batterie? Come si chiama? Leone? Leone, che aiuto gli stai dando? Quanto? Non c'è più. Però Claudio, se vuoi un consiglio, rimaniti normale, tanto ti ascoltiamo forte e chiaro tutti, rimani senza aiuto. C'è una bomba a cacca, c'è una radio spettacolare, fortissima, anzi pure troppo forte posso dire. Riccardo, come l'ascolti tu senza aiuto? Ciao Robè, riprendo io perché Riccardo si è allontanato e ti saluto. Claudio sta arrivando benissimo, forte, infatti sembra che non sia cambiato granché, arriva fortissimo. È quello che sto dicendo, perché se uno si sporca la modulazione, era chiara comunque, però era leggermente strappata. E dico, a me arriva 9-10 con senza niente, per cui che bisogno c'è di mettere aiutino. Se devi fare di exit lo posso capire per farti sentire, ma se scendo la gara. Comunque quell'abbinamento, Sergio, ottimo, questo è quello che c'era prima Riccardo. Sì, esatto, gli ho rimesso questo con questo microfono giusto per provarlo. Insomma, dovrebbe andare bene. Alla grande, poi con Riccardino che c'ha una bella voce squillante, è perfetta, una delle più belle in frequenza, gliel'ho già detto, mettici un po' di attacco, qualcosa matrice che non regoli niente, tocchi così, non lo faccia toccare a nessuno, che è perfetto. Abbiamo fatto tutte le prove possibili, a iniziare dai tuni a regolare i guadagni sia in un modo che nell'altro, sia del baracchino che del microfono, le abbiamo fatte tutte e quella è la regolazione migliore, in modo che non ti faccia disturbi o qualcosa del genere. Adesso va benissimo, è proprio al limite della saturazione, per cui sta spingendo alla grande quel microfono e non ne dubitavo, perché quello è un grande microfono. Pensate, quando sono arrivato qua di nuovo l'hai toccato, perché ho visto i tasti che non sono stati rispetto a prima. Dice no, Roberto mi ha detto che va andando bene così, e va bene, dai, allora perché così c'è qualcuno che ti ha dato delle dritte. Claudio sta arrivando fortissimo, lo ascolto molto bene, come se fosse qua vicino. Adesso dai. Che avanti? Sì, sempre Leone da questo, dai. Ma hai cambiato microfono, Leo? No, ha parlato. No, parlare. No, parlare. Ah, mi sentite, dai, guarda adesso se va bene. Adesso un'altra musica, il segnale c'è sempre oltre 9, la radio è 5, chiara, senza disturbo. Adesso ho messo le 300, aspetta che guarda adesso, guarda se cambia qualcosa. Aspetta, riprova il passaggio che ha parlato sopra radio per errore, riprova di nuovo Leone. Adesso sei quasi 9, ma sei pulito. Forse non sta uscendo di radio, beh. Guarda adesso. Si è abbassato di radio. Si spegne il microfono, guarda adesso. Adesso sei 9 più 5, va bene adesso, dai. Se ascolto pulito e chiaro, poco fa c'avevi qualche problemina. Problemino. C'è anche Claudio Lamuro che ha detto che ti ascolta, adesso te lo rilancio e poi passerà il mic a Luca. Avanti Claudio Lamuro. Sì, io adesso ti ascolto più basso, come ho fatto se devo più forte con l'altra apparecchio? Con questo malato non so tu come mi ascolti. No, stavo dicendo a Roberto, scusa Roberto, a Leone lo sento pure io, avanti Leone, buonasera, mi senti? Ehi, guarda, già ti sento io, sempre sento proprio chiaro. Ok, dai, arrivi benissimo anche qua, abbiamo già fatto delle prove, va bene anche questa radio, cos'è il problema di questa radio? Viene, si spegne il microfono. Questo le mette a centro, era molto bello, magari vuole messo qualche po' di roba, perché ogni tanto si spegne la spia, non fa proprio bene di casa. Vabbè, si spegne la spia, poi c'è anche la batteria. No, è roba nuova, è fatto, se comodo come lo schiaccio, intanto accende, se no rimane spento. Basta da aprirlo, ma c'è il filo dove metti la batteria che è coso, che è difettoso, si sta risaldando, boh. Ok, dai, saluto anche Alfa Ventura, avanti, riprendi. Ok, ciao Luca, sempre forte, qua. Sì, adesso lo ascolto molto bene, a volte una leggera amplificazione, anche la radio di Leone, comunque arriva benissimo, non ci sono problemi. Avanti Roberto. A Claudio, abbassa un peluzzino la radio tu, il livello microfonico, un peluzzino, oppure non alzare troppo la voce, io consiglio abbassare un pochettino, stai leggermente, ma poco a poco saturando, appena alzi un po' il tono della voce, appena saturi. Perfetto, se rimani così sei eccellente, niente da dire. Luca, chi ti arriva più forte, Muros o Ittidi? Vabbè, se sgancia, se appari di coso arriva più forte Ittidi. Ma è sganciato, coso? Ma è Claudio Lamuros è normale, è pulito adesso. Arriva più forte Ittidi, vabbè, poco fa era 5, vabbè 5 era 7, dai. Invece Claudio è 5, sganciato. No, sta arrivando la bomboletta, tutti e due, oltre 9, Ittidi un po' meno, quasi 9,5, quello lì faccia 9,5, Claudio, ed è pulito Claudio, sta andando alla grande, bella modulazione, raramente ti ho sentito così bene, non toccare niente Claudio, anche Ittidi sta andando bene, Mari, se riesci a metterci, cos'è, che microfono stai utilizzando Leone? Dimmi il nome, perché a me per chiamare per nominativi non mi piace, come ti chiami Leone? Non sei uscito. Sì, Tonino, va bene, adesso sei un po' più basso, adesso sei sceso a 7 di segnale, da 9 abbondanza. Quasi 8, 6, 7 qualcosa, dai. Ok, no, la radio va bene, chiara, pulita. Di nuovo stacca. Ti stacca la modulazione quando stai parlando. Eppure c'ha la mantova, dovrebbe arrivare cacchio a bomba qua, da Ittidi. C'era Giovanni che arrivava più di 9. Comunque già ti ascolto bene, niente da dire. Ok, chi c'è? Sergio, avanti a te ancora, vai. Sono il figlio. Ah, il figlio, come sa di conoscerti a te? Lo sai, io conosco a tuo padre, una brava persona, speriamo che tu non sei di quei ragazzi Monelli. Ma molto. Ok, vai di nuovo Claudio, a te il mic. Sì, positivo, sto usando un Turner microfono a tavolo con il Tornado 34S. Comunque quando interrompo le comunicazioni si sente alla fine il Roger Beep, vero? Va bene, ma quale è quella, vabbè, abbiamo capito quale, dopo la riattacco intanto, tanto sto usando un baracchinetto e non sto tutto il tempo così, riattacco quello più tardi. Oh, Bianco, per me un attimino, arrivo subito. Ehi, Robè, strano che non sia partita la sirena. Sono rientrato, chi c'è? Ci sono sempre io, non sono scappato, stai tranquillo. Ehi, hai gli altri? Sono tutti... Claudio, ci sei ancora? Attento Claudio, ci sei da Muros. No, mi sono allontanato anche io, sono rientrato e ho sentito solo fruscio, ho detto va tutti morti, tutti scappati. Invece c'è ancora Riccardino, ci sei tu e vediamo Tonino da Ittidi se c'è ancora. bisogna stare attenti a queste cose, adesso soprattutto le cose cinesi dichiarano potenze assurde, poi vai a misurare e c'è nemmeno della metà. Ma magari lo sai dove c'hanno quegli apparati lì, c'hanno dei doppi tasti, bisogna leggere se si può fare un, prima di accendere, se c'è la tastiera o qualcosa, schiacci contemporaneamente due tasti, quando accendi diventano, c'hanno le altre bande, prova a vedere. Già stai uscendo bene, ti ascolto perfettamente. Radio 5 segnale quasi 8, sì. Io ho l'MB40 della Mobico. Stai attento, è un peccato rovinare gli apparati. Ok, vai Riccardo, a te il micro. Gli volevo dire a Leone, visto che gli si è bruciato l'MB30, mi servirebbe il suo microfono. Hai sentito Tonino? Ha detto Riccardo, se si è bruciato l'apparato e ti è rimasto il microfono, a lui gli potrebbe interessare. Hai sentito Riccardo? Sì, meno male allora, no, perché come sai mi manca il microfono di quel baracchino. Ma tu ce l'hai, non c'hai l'MB40 tu.